Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e durante 60 minutos trago-lhe música clássica, música erudita. Hoje trago-lhe uma obra de Verdi, uma ópera que será a que vai ouvir ao longo de toda a nossa emissão. Esta é a minha última, a minha primeira e última intervenção nesta noite. Vamos ficar com Verdi, que nos traz La Forza del Destino, a Força do Destino. É a obra que vamos ouvir nesta nossa emissão do dia 28 de setembro do ano de 2011. Da minha parte é tudo. Fique então com esta obra e, claro, voltarei para a semana para mais um Quarto Andamento. Fique bem e boa noite. Sapete chi si lascia illudere. Oh, Thank you. Sosterreste un duel con chi nemici non avete? Tutti ne abbiam, ma a stento, a stento comprendo. No, messaggio non vi inviava Don Alvaro l'indiano. O tradimento sleale. Il segreto fu dunque violato, illeso quel Diego, effigie apparata, Don Carlo di Valga stremate, io sono. D'ardite minacce, non m'agita suono. Usciamo l'istante, non deve morire. La morte disprezzo, ma vuol m'inferire, contro un che per primo amistade m'offria. No, no, profanato, allora non sia no. Che il padre m'ha ucciso, non io che sedussi quell'angiol d'amore, ne guardano entrambi e dal paradiso io sono innocente, vivi per il cuore, io sono. Sono innocente. la notte fatale io caddi per doppia ferita mortale. Guaritone un anno in traccia ne andai. Oimè, che la spenta Leonora trovai. Menzogna, menzogna, la suora ospitava l'antica parente, vi giunsi a tardi, ed ella un cento. E feire, ella feire, gran Dio, si vive. Don Carlo, amico, il fremito con mia fibra scuote, vi dica che quest'anima infame messer non puote. Vive, gran Dio, quell'angelo, vive quell'angelo, vive quell'angelo, vive, vive gran Dio. Vita la mia, passo! Non rimasto, cambia! Forse lui vorrà! Cancella! t'ascondi, ma di tolla via l'odio e la sete di vendetta. Alcuno qui non sarà che ne divida. Il sangue, solo il tuo sangue, può lavarlo al taggio. Sorrow, tale assai. Il mi raggiunse, mi insultò. avvenne. Ella ferì. Quarto andamento com Joana Santos.